già tre lune, da te la mia violetta, facci per me lo show d'amici amori, e le pompose feste, ovali a magia vetta, vede a tia voce a scura, di tua bellezza. Quasi in cielo, io vivo qua.